Siamo qui con Antonio Content, autore di due podcast. Adesso ci facciamo dire direttamente dall'autore quali sono questi podcast. Il primo podcast che ha interrotto le trasmissioni, che si chiama Prendo Deliri, è un'esperienza molto personale che ha avuto la sua parabola discendente, si è in qualche modo conclusa questa parabola, però lo menziono lo stesso perché ci sono ancora parecchie persone che così mi contattano per commentare questo primo podcast. È un'esperienza, dicevo, molto intima, una sorta di diario di un pendolare che racconta l'assurdo mondo che lo circonda, ed è un po' la parabola dell'assurdità della vita, di queste perdite di tempo, di questi sprechi, spreco di benzina, inquinamento e così via. Tutto si mescola in una serie di, appunto, deliri, come vengono definiti, che lasciano un po' il tempo che trovano. E infatti, insomma, adesso anche questa esperienza si è conclusa. Adesso ho invece inaugurato, ormai più di un mese fa, un nuovo podcast con cadenza settimanale, che non è più, diciamo, un podcast privato, non è un podcast intimo, è in realtà una sorta di rubrica che si chiama Pod Power. Diciamo che si tratta di un tentativo di trasmissione verticale. Cerco in qualche modo di fornire qualche suggerimento alle persone che vogliono ascoltare qualcosa di più interessante rispetto a quello che propongono i media tradizionali, utilizzando la rete internet, che è una risorsa straordinaria in questi termini. Molto bene. Quando è che hai sentito la prima volta la parola podcast? Questa è un'ottima domanda, perché ormai sembra un secolo fa. Sicuramente possiamo dire intorno a novembre dello scorso anno. Prendo Deliri esisteva già da parecchio tempo, ma non era distribuito in modalità podcast, era un semplice audioblog. Chi aveva, diciamo così, la buona volontà di andare sul blog e poi scaricarsi questo file audio lo poteva fare. Con il podcast è diventato tutto molto più facile, e anche Prendo Deliri ha visto aumentare il proprio pubblico. E Prendo Deliri quando è che è nato, più o meno il periodo? Ma sai, ho provato a fare una ricerca dei file più vecchi, risalgono addirittura al 2003, però so che, insomma, esistono anche audioblog italiani più o meno databili nello stesso periodo, quindi non voglio essere considerato per forza il pioniere di questo tipo di esperienza. Comunque persone che registravano propri commenti, lo mettevano online, sì, ci sono stati, sì, molti, però che nel termine stretto di podcast comunque è una cosa relativamente breve. Comunque sì. Vado con le altre domande di rito. Hai dei collaboratori? Prendo Deliri assolutamente no, nel senso che era davvero la prova di come il podcast può essere quasi una produzione cellulare, dove ciascuno è una cellula di produzione e gestisce tutta quella che nei tempi della New Economy si chiamava la catena di produzione. Io spero che nessuno usi più questo termine osceno. E mentre Pod Power, sì, devo dire che al 95% è farina del mio sacco, però sto cercando di coinvolgere sempre più altre persone che mi stanno dando la mano, per il momento soprattutto nella fase di traduzione dei testi. Ci sono queste voci che doppiano in qualche modo le varie persone che vengono intervistate, e quindi vorrei fare i nomi di Antonio Piccolo, come lo chiamiamo confidenzialmente, che è stato il primo traduttore che abbiamo impiegato, poi Marco Mico, che è un traduttore simultaneista, professionista, addirittura lavora per la RAI, e più di recente anche Mara Alfarini. Avevamo bisogno di una voce femminile per doppiare Marianne Trudella, abbiamo trovato lei. Complimenti. Tu hai avuto esperienze precedenti radiofoniche, cioè hai già lavorato in radio, quindi ti sapevi un attimo muovere bene col microfono e registratore, oppure è stato il primo approccio con il microfono, diciamo così? Guarda, io sono un grandissimo appassionato di radio dal punto di vista della fruizione, ma come produzione non ho praticamente nessuna esperienza, e anche adesso i mezzi tecnici sono estremamente poveri. credo che il podcast sia veramente per molti l'opportunità di mettersi alla prova e di far sentire la propria voce. Lo dico con grande entusiasmo perché mi sembra che ci sia una certa passività nel mondo della radio. Si può addirittura, grazie a internet, trasformare la radio in qualcosa di veramente diffuso e interattivo, cosa che in Italia non accade. In Italia c'è grande, grande passività. Quanto incide la musica sui tuoi podcast? Ma molto poco, nel senso che sì, ogni tanto parliamo di musica, come è accaduto nell'ultimo Pod Power che abbiamo pubblicato, dove abbiamo intervistato una musicista in effetti, però è chiaro che noi stiamo estremamente attenti nel rispettare le leggi sul copyright. L'ultima intervista a Marina Trudello ce la siamo potuta permettere perché abbiamo avuto il consenso di una persona che non solo detiene diritti di autore, ma gestisce tutta la catena, la produzione, la distribuzione, quindi questo ci ha permesso quella che consideriamo un'eccezione, ma per il resto usiamo esclusivamente musica sotto licenza Creative Commons, perché primo perché è musica molto interessante, quindi questa è la premessa, cioè non è una scelta residuale. Secondo, perché vogliamo anche, come dire, dare una certa importanza a questo nuovo modo di diffondere la propria creatività. Mi allaccio a questo discorso per chiederti se secondo te quanto incide il limite della SIAE nella realizzazione dei podcast, cioè prova a considerare un attimo dei giovani ragazzi come ad esempio Radio NK, dove fanno tutta una cosa a livello amatoriale, che però non possono esprimere al 100% la loro creatività, perché appunto c'è la SIAE che impone dei paletti non indifferenti. Secondo te la SIAE si potrebbe muovere in maniera un po' alternativa per agevolare queste cose? Ma allora, va detto che per voi è molto penalizzante, perché le vostre puntate, che sono, parlo di Radio NK in particolare, del Caffè Nichilismo, sono estremamente spassose, soprattutto quando così affondano nella storia, nelle pratiche degli anni Ottanta, oppure nel mondo delle colonne sonore dei cartoni animati giapponesi e così via. È chiaro che le dovete far sentire se volete fare delle puntate di questo tipo, allora a quel punto si creano problemi con la SIAE, immagino. Il punto è che la SIAE ha un impianto, diciamo, normativo che può andare bene per quella che era per quelli che erano i supporti della musica una decina d'anni fa, e non mi sembra che si siano inventati una normazione più flessibile in modo da permettere appunto a persone come voi di da una parte rispettare i diritti d'autore, dall'altra però non come dire depauperare completamente la propria creatività. Secondo me ci possono essere degli spazi interessanti per non ledere entrambe le parti. Voi avete, del resto esiste anche la libertà d'espressione, e quindi mi sembra che si debba trovare un giusto mezzo aristotelico tra le due esigenze. Pensi che un eventuale uso della pubblicità all'interno del podcast possa essere troppo invasiva? Ma guarda, io ti farei gli esempi di Daily Sonic. Daily Sonic è un podcast che fa pubblicità, che ha degli sponsor. Innanzitutto sono tutti sponsor estremamente in linea con i contenuti del podcast, sempre a sfondo così no profit, oppure comunque si tratta di sponsor che sono anche i fornitori del programma, cioè il programma alla fine si finanzia con la sponsorship per esempio dello studio di registrazione. Ecco, io credo che se un podcast riesce a far entrare come sponsor i propri fornitori, comincia già ad autofinanziarsi in questo modo, pone le basi per realizzare un prodotto di qualità senza dare problemi nella fase di ascolto. Cioè, a me non ha mai dato fastidio ascoltare una pubblicità su Daily Sonic o anche su altri podcast statunitensi. Adesso non voglio fare per forza quello che deve copiare il modello anglosassone, però sotto questo aspetto mi sembra che siano molto più avanti rispetto a noi, che siamo obiettivamente, almeno nel mio caso, degli amatori, dei dilettanti. Non ho la minima intenzione per il momento di inserire pubblicità, ma laddove ve ne fosse un'opportunità senza snaturare il contenuto, perché no? Quante puntate avete realizzato, anzi singolare, quante puntate hai realizzato adesso, diciamo con una somma dei due podcast? Quante puntate? Non ho mai tenuto il conto, diciamo Pendo Deliri saranno almeno una quarantina di podcast, però bisogna dire che ci sono parecchie registrazioni di Pendo Deliri che non sono mai andate in podcast. podcast, parlo di alcune vecchie registrazioni realizzate poi con mezzi veramente di fortuna, tipo il microfono del cellulare o peggio. Il microfono per del cellulare è un mezzo sicuramente valido, perché mi ricordo che io ho fatto una puntata che poi è disponibile solo su Radio NK, dove io sono in macchina e avevo il limite dei 3 minuti dettati dal registratore esatto. del telefono, quindi è un'esperienza. No, ma non parlo di tutti i microfoni. Cioè, guarda, i microfoni dei cellulari che ci sono adesso sono perfetti per un podcast in mobilità. Infatti, anzi, vorrei incitare chiunque voglia sfruttare il tempo che trascorre in macchina, per esempio i pendolari, a usare tranquillamente. I nuovi cellulari sono perfetti. Il problema è il cellulare che avevo io allora, che registrava con una qualità assolutamente infima. E dunque, allora, abbiamo detto una quarantina di episodi di Bando Delirio sicuramente ci sono, e poi ci sono questi 4 Pod Power, però obiettivamente un singolo episodio di Pod Power richiede molto molto più lavoro, molto meno spontaneo, molto più editato, e tant'è che è proprio per questo che pubblico a parte anche i fuori onda di Pod Power, proprio perché non voglio dare la sensazione che si perda in spontaneità, sono divertenti anche i blooper, le papere e così via, quindi a parte è possibile ascoltare anche quelli. Ti faccio 2 domande che si legano bene. Che cosa ti ha spinto a fare il podcast, e anche se il podcast è un accessorio del tuo blog oppure è il fulcro? No, assolutamente non è un accessorio del blog. Il blog è completamente al servizio del podcast. Addirittura io parlo di blog di appoggio, semplicemente è un indice. E tra l'altro non voglio essere considerato un blogger, lo sottolineo, perché è un altro tipo di impegno. No, non c'è nessun elemento dispregiativo, ci sono grandissimi blogger in circolazione. Il problema è che nel mio caso l'impegno non è sul blog. Il blog è semplicemente un indice o anche un luogo dove riesco ad avere un minimo di interazione con chi ascolta, perché ci sono i commenti e così via, quindi è molto comodo, però è semplicemente una sorta di impalcatura di appoggio. E quindi non ricordo bene il resto della domanda, però. No, cos'è che ti aveva spinto a fare il podcast? Comunque, beh, sì, l'avevi detto già all'inizio. Guarda, il podcast, te lo dico subito, in questo io credo moltissimo nel potenziale del podcast, perché a livelli di costi sia di produzione che di fruizione che di libertà di espressione, credo che sia veramente la radio del futuro, la radio on demand del futuro. Dico anche che, per esempio, la cosa che mi piace di più di Radio NK è il fatto che non si percepisce mai il limite del dover essere politically correct. Cioè, non c'è la sensazione di dire questo non lo diciamo perché diamo fastidio a qualcuno. Se si deve ridere, se si deve scherzare, o anche se si deve dire qualcosa di intelligente, non c'è questo limite, non c'è questa sorta di castrazione artificiale che rende il podcast potenzialmente dirompente rispetto a questa radio anacquata, questa radio omologata e uguale a se stessa fino allo sfinimento che ci propone l'offerta in modulazione di frequenza. Più o meno possiamo dire così per Radio NK, più o meno, perché ci sono state varie discussioni in merito, comunque sì, più o meno così. Ti aspettavi una diffusione del tuo podcast diverso, oppure ti aspettavi che più gente ti ascoltasse, di più o meno? Guarda, Pendo Deliri, devo dire che è andato al di là di quelle che sarebbero state le rosee aspettative se l'obiettivo fosse stato quello di avere un'ampia, un'ampia diffusione. Era veramente poco di più che un diario per me. Il fatto poi che fosse consultabile anche da altre persone, poco male, però non nasce assolutamente per essere ascoltato da centinaia di persone, come poi alla fine è accaduto. Mentre Pod Power a quel punto no, Pod Power può anche essere qualcosa che potenzialmente può interessare a parecchie persone, perché credo che ci siano parecchi italiani soprattutto che vogliono cominciare a sentire qualcosa di diverso. Internet dà questa opportunità, Pod Power è una guida in italiano a questa opportunità, anche se l'opportunità si trova sì in Italia ma soprattutto all'estero, per chi ha la fortuna di conoscere l'inglese o il francese. Io non parlo mai su Pod Power dei podcast italiani, perché alla fine siamo tutti amici e non vorrei che si creasse questo clima diciamo così, che ce la cantiamo, ce la suoniamo un po' tra di noi. Io sono amico tuo, conosco bene i podcaster di Zubar, di Da Capo al Fine, e quindi tra di noi le marchette direi di cominciare ad evitarle. Però finché appunto si riesce a coprire un ventaglio di opportunità, di alternative, credo che PodPower possa costituire un servizio in qualche modo, anche se chiaramente il tempo è poco. Però il bello è che anche se qualcuno magari che ci sta ascoltando sta pensando di mettere in piedi un podcast e fa un podcast di 5 minuti al mese, non importa, perché anzi molto spesso sui lettori MP3 c'è bisogno di quei 2 mega per riempire completamente la memoria, quindi anche lì c'è un mercato, secondo me, un mercato di nicchia. No, non ci sono problemi rispetto alla cannibalizzazione della banda. Ci sono persone, ci sono podcaster che decidono come voi di fare delle cose di 2 ore e vanno benissimo, ed altri che decidono di fare cose di 2 minuti, come per esempio i ragazzi di Starcast, che secondo me hanno cominciato veramente col piede giusto e fanno delle cose molto interessanti. E anche per loro, secondo me, c'è un notevole potenziale. Quindi ritieni che il fenomeno del podcast in Italia possa, come posso dire, aumentare le potenzialità di ascoltatori e anche di autori? Guarda, non ti devi intristire, Sandrino, quando vedi che molti si fermano alla prima o alla seconda puntata. È fatale che accada. Poi alla fine però ci sono quei 5-6 podcast italiani che vanno avanti, e ce ne saranno sempre di più. Una normale scrematura è ovvio che ci sia in tutte le cose, non è quello. Certo, dispiace vedere che questo fenomeno può prendere una bella piega, diciamo così, però molti, ecco, abbiamo fatto il nostro nuovo podcast, non so che dire, bla bla bla bla bla bla, e finisce lì. Pensi che alcuni personaggi famosi italiani che sono stati zittiti, diciamo così, sappiamo quali sono i classici 3 nomi che girano, pensi che possono utilizzare questo mezzo per allargare un po' il raggio d'azione, per farsi sentire? Ma io credo che su quel tipo di esigenza, che è quella del pluralismo, che è la parola forse più utilizzata in questo caso, lì, vabbè, si va inesorabilmente nelle case degli italiani. Si usa l'etere, si usa anche il satellite. Il podcast obiettivamente è ancora un fenomeno di nicchia, e non è detto che, vabbè, non so, magari un giorno potrebbe diventare un fenomeno di massa, ma fino a dare ad avere una sua dignità nel garantire il pluralismo, per esempio, dell'informazione, mi sembra che il passo sia abbastanza lungo. Quindi per il momento io, per esempio, credo che i famosi 3 personaggi zittiti di cui hai parlato fino adesso farebbero magari meglio a usare il satellite, no? Visto che Sky è arrivato ormai a 4 milioni di utenti, il che significa 12 milioni di italiani. Ecco, quello già mi sembra, visto che ci sono dei canali televisivi. Però che hanno internet un'impostazione... è più diffuso. Guarda, io proprio stamattina sono stato al forum PI e ho sentito Roma, il presidente del Censis, dire che alla fine internet è diffuso al 40% in Italia, cioè il 40% degli italiani usa internet. Di questo 40%, chi lo usa per informarsi, francamente, credo che siano veramente pochi. La televisione ha ancora un ruolo, poi nelle case la televisione non può avere la concorrenza del computer. No, quello è sicuro, però ecco. Io non è che conosco tantissime persone che hanno Sky in casa, così. Perlomeno è una mia statistica. No, è vero, però cioè, quello che credo io è questo, che la grande forza del podcast sia non a casa, nelle condizioni di mobilità. Quando sei in automobile, allora il podcast ha una straordinaria capacità di penetrazione, perché è la cosa ideale da ascoltare, oltre chiaramente alla propria musica sul lettore MP3. Quindi per questo credo che fondamentalmente sia destinato ad essere un fenomeno comunque di nicchia. Poi col tempo potrebbe diventarlo anche un fenomeno di massa, ma non fino poterne fare uno strumento di pluralismo come può essere la televisione. Poi francamente io non credo che questa situazione di monopolio televisivo sia destinato a perpetuarsi fino a così all'infinito. Se guardiamo per esempio la 7, no? La 7 è una televisione che fa molta informazione perché sa che è proprio quella l'area in cui può dare un'alternativa. Anche la 7 non è che sia, posso dire, il massimo dell'espressione. Cioè, se si va a vedere ad esempio l'ultimo blog di Beppe Grillo, non è che ad esempio viene parlato benissimo della 7. Ma sai, anche quella è l'espressione comunque di un gruppo industriale. Cioè, il problema che abbiamo in Italia è che non esistono gli editori puri. Questo è un fenomeno. Ecco, il problema non è tanto il pluralismo in sé, il fatto che non esistono editori puri, cioè qualcuno che veramente guadagna dall'offerta di informazione, dall'offerta di qualità di informazione. Però attenzione, perché il gruppo La 7, MTV, adesso hanno anche preso Elefante, potrebbero cominciare veramente a rappresentare un polo, diciamo, utile. Poi insomma, no, non è che si possa dare un giudizio di valore su quello che dice anche il buon Emilio Fede su Rete 4. No, cioè, no. Lui chiaramente cioè, la pensa in un certo modo. Io preferisco mille volte Emilio Fede, anche se chiaramente la penso esattamente all'opposto, che però insomma molto chiaramente dice di essere parziale, piuttosto che chi addirittura pensa di essere imparziale e prova a vendertelo quando non lo è. Cioè, il mito della imparzialità dell'informazione è la cosa più pericolosa in assoluto, perché certo, è molto più pericoloso un mentana che magari cerca di farti credere, come ha fatto per anni con il suo TG5, di essere imparziale, piuttosto che un Fede o non lo so. Ho capito. Va bene, senti, io ti ringrazio per la disponibilità, per aver parlato di come ne pensi sul podcast, anche se il discorso poteva continuare tranquillamente per quanto concerne la comunicazione in generale. Adesso, parlando così del podcast come mezzo di eventuale mezzo di comunicazione alternativo, mi è venuto in mente che ci sono adesso le TV di condominio, proprio un argomento, una cosa recente, che quello sì che potrebbe essere un nuovo mezzo di comunicazione quando hai quei super condomini. Sì, però il problema è il momento della fruizione, cioè la TV del condominio subisce comunque la concorrenza di migliaia di canali, di cui certo, 8 generalisti multimiliardari e poi altre centinaia di canali di nicchia. Quindi la TV di condominio è splendida per fare un articolo di giornale, però quello sì, è destinato. Sì, anche perché al momento c'è solo un discorso di raggiungere la massa, non tanto col satellite, ma con la TV via etere, perché secondo me il satellite è ancora una cosa di nicchia, perché è sempre associato al fattore economico. Sì, però attenzione, perché il satellite non è solo Sky, eh? Cioè tu puoi, con una parabola che costa 20 euro e un decoder che ne costa 80, free to air, già avere molto, ma molto di più di quello che dà il digitale terrestre, che infatti è una bufala spaventosa, e questo non ho nessun problema a dirlo. Sarà che ho sempre avuto la parabola, e lì c'è una questione forse affettiva. Io sono uno di quelli che ha avuto la parabola di 3 metri, quando gli unici canali si ricevevano in quel modo. Però io vedo molto. Il fritto, volendo. La paella si può fare. Esatto. A una festa di paese puoi fare la paella. Va bene, Alessandro. Grazie anche a voi per quello che state facendo e grazie per regalarmi dei momenti di letizia sia con Toilet Cast, che è assolutamente imperdibile, che con Radio NK. Saluti anche al filosofo del Demiurgo. Ok, riferirò. Va bene, okay. Ti ringrazio e niente, ci sentiamo prossimamente. A presto, ciao. Ciao.